2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 18 ottobre 2008, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale è 2024 e radio24.it. Come sempre vi ricordo il nostro servizio podcast, quindi la possibilità di riascoltare il nostro programma quando preferite, soprattutto con lo strumento che preferite, sul vostro computer, sul lettore MP3. Tutte le informazioni sono online su www.radio24.it, oppure inviateci una email e vi daremo tutte le istruzioni. In questa puntata ci occuperemo di pubblicità online e parleremo anche di TV digitale terrestre, questo e altro nel corso della prossima ora di 2024. Una notizia che riguarda le vendite di computer: crescono di circa il 15% le vendite di PC nell'ultimo trimestre, il terzo dell'anno. Secondo Gartner sono stati venduti in tutto il mondo oltre 80 milioni di pezzi e le consegne sono sostenute dal successo dei netbook, i piccoli portatili a prezzi molto bassi presentati ormai da quasi tutti i principali produttori nel corso dell'ultimo anno, di cui abbiamo parlato più volte anche a 2024. La classifica è guidata sempre da HP con una quota del 18,4%, Dell è seconda con il 13,6%, tallonata però da Acer che ha il 12,5% del mercato. Acer tra l'altro che ha realizzato la migliore crescita del trimestre con quasi il 50% di vendite in più rispetto allo scorso anno, stesso periodo scorso anno. Ci sono poi Lenovo 7,3%, Toshiba 4,6%, gli altri produttori si dividono il rimanente 43% del mercato, quindi un sistema ancora molto frammentato. Cresce anche se soprattutto negli Stati Uniti Apple, che approfitta del cattivo impatto che ha avuto sul mercato Vista, il sistema operativo di Microsoft. Apple tra l'altro ha lanciato in settimana la nuova linea di portatili. Tra le novità più interessanti, una scocca completamente in alluminio che quindi permette di produrre portatili più leggeri, e per un computer portatile questo è molto importante, e anche più resistente. È altrettanto importante insomma la resistenza della macchina. La parte di grafica integrata non è più Intel, e questa è una notizia interessante, ma è nata dalla collaborazione con Nvidia, quindi il chip grafico è fornito da Nvidia, ricordiamo il più importante produttore indipendente di grafica, scelta che quindi aumenta le capacità grafiche dei portatili della mela. Qualche novità anche sul fronte dei prezzi: un modello, ma solo un modello, è stato posizionato sotto i 1.000 euro, quindi prezzo di entrata un po' più basso, ma certo ancora elevato rispetto ad altri computer portatili che sono sul mercato. Naturalmente stiamo parlando di caratteristiche totalmente diverse rispetto a molti portatili che costano 400-500 euro e magari sono anche molto molto pesanti. Dagli Stati Uniti arriva qualche segnale di vitalità per Motorola, che da martedì comincerà a distribuire il nuovo Crave, un telefono touchscreen che tenta di arginare il successo dell'iPhone in questo segmento di mercato, insomma nel segmento di prodotti touchscreen e anche a elevato costo, gli smartphone. Motorola, lo ricordiamo, è scivolata nell'ultimo anno al terzo posto tra i produttori di telefonini a livello globale dopo Nokia e Samsung, ma rimane leader di mercato negli Stati Uniti. Molti di voi sanno che una buona parte della campagna elettorale americana si sta giocando online. È notizia di questa settimana che Barack Obama farà pubblicità non solo su internet, cosa che fa già, ma sarà il primo candidato alla Casa Bianca a comprare spazi pubblicitari nei videogame, in particolare su 18 diversi titoli tramite il servizio Xbox Live della Microsoft. A proposito di pubblicità, il mercato continua a crescere anche in Italia, stiamo parlando di pubblicità online, e più tardi, come dicevo, faremo il punto della situazione sul mercato. L'Unione Europea lancia l'allarme per il rumore troppo elevato a cui sono esposti i giovani europei. Molti di loro rischiano danni permanenti all'udito dopo 5 anni di ascolto di lettori MP3 a volume alto per 5 ore alla settimana. Queste naturalmente sono medie. Secondo una ricerca europea si stima che ci siano tra i 50 e i 100 milioni di persone che ascoltano musica dai lettori portatili quotidianamente. Il numero delle persone a rischio è tra il 5 e il 10% di chi usa i lettori, e la stima ci parla di circa circa 10 milioni di persone nell'Unione Europea a rischio. C'è anche un altro aspetto della diffusione di lettori e di file MP3, e cioè l'abbassamento della qualità. Un numero sempre maggiore di persone si abitua ad ascoltare musica di bassa qualità, e anche l'ascolto con le cuffiette certo non contribuisce a creare una buona esperienza d'ascolto. Insomma, con l'arrivo del digitale c'è meno attenzione all'alta fedeltà, all'alta qualità audio. Spesso appunto i file MP3 non sono di buona qualità. Sapete che è stato istituito un comitato per definire regole per combattere la pirateria multimediale e digitale, così la chiama il governo. Fatto il comitato, si è sollevata in rete la protesta di chi non è stato coinvolto, e visto che la pirateria è oramai un fenomeno che coinvolge una fetta sempre più ampia di attori nel mondo digitale, dovrebbe essere inevitabile il coinvolgimento di tanti soggetti. Per il momento così tanti soggetti non sono stati coinvolti, per questo che è stata anche scritta una lettera, ci sono state molte prese di posizioni, vedremo poi che cosa farà il governo nelle prossime settimane. Adesso parliamo di una invenzione, una idea che ha poco a che fare con il mondo della rete, ma ha a che fare con il mondo della tecnologia. Oggi al Museo Nazionale della Montagna di Torino viene presentato un progetto per nuovi paletti delle piste da sci. È una cosa sicuramente particolare, l'ha ideata il professor Gianni Mazzonetto, docente di geometria per il design industriale all'Istituto Universitario di Architettura di Venezia. Lo ha intervistato Dario Ricci. È un complesso completamente nuovo che va dal palo ma anche al controllo dei passaggi sui pali. Perché è un po' ridicolo che nel 2010, nel momento in cui lei e io parliamo, ci stanno controllando dai satellite, noi sulle piste da sci mettiamo delle persone che con 10 sotto zero ci mettono con la matitina il pezzo di carta a controllare i passaggi degli atleti a 90 all'ora. Il complesso del lavoro riguarda un po' tutto, sia la sostituzione di questo palo con un fascio di luce, potentissimo chiaramente, e poi il controllo dei passaggi con dei sistemi elettronici che possono trasmettere ad una tabella, un tabellone, al giudice quello che succede sulla pista, lasciando finalmente a casa i poveri guardiaporti a godersi il caldo, le castagne e non tribolare in pista, creando anche talvolta delle liti furibonde. Ecco, quindi professore, al posto del classico paletto, un fascio di luce, di onde elettromagnetiche colorato sì, di rosso o di blu, che indica sì, il palo stesso. Ecco, come avviene invece la rilevazione dell'eventuale inforcata, cioè del passaggio irregolare da parte dello sciatore? Mi sembra abbastanza semplice, nel senso che è quello che avviene quando dai negozi uno esce e controllano se ha del materiale, un microchip si rivela immediatamente il passaggio, è una tecnologia larghissimamente usata, anzi adesso ormai il passaggio delle merci avviene sempre con dei, e quando lei ha messo dei microchip sugli scarponi ha immediatamente il raggio elettromagnetico che viene intercettato, riflesso e trasmesso, quindi l'ingegnere elettronico che lavora su queste cose ha detto è una cosa facile e divertente, fra l'altro è un bravissimo sciatore che non può più gareggiare perché si è spaccato sui pali. Nessuno degli atleti è indenne da infortuni, da inforcata. Io penso sempre alla mia carissima amica Deborah Compagnoni, che è anche la presidente del comitato tecnico scientifico del centro di ricerca, che ancora non è guarita il ginocchio, cioè quella è una lesione permanente, quindi qualcosa bisognava pur pensare. Penso ai ragazzini di 16 anni, quando si spaccano è una lesione permanente, ginocchio, legamento, distorsione, cose del genere, con dei costi sociali paurosi. È sicuramente una ottima idea, spesso la tecnologia offre tante soluzioni, poi devono essere gli uomini con la fantasia, con le idee a inventare le applicazioni, e poi sarà in questo specifico caso la Federazione dello Sci a decidere se questa idea verrà applicata. A proposito di idee innovative, in questi giorni vi sarete anche accorti della copertura che abbiamo dato a SMAO. A SMAO ci sono i percorsi dell'innovazione, giovani imprenditori italiani e quindi anche giovani idee che sono nate in Italia che cercano finanziatori o comunque che cercano un mercato. Ieri l'altro c'è stata una presentazione e una premiazione all'interno di Tech Garage. Il premio è andato a Martino Ierian, che ha fondato da un paio di anni la Amped e ha vinto il premio con un software chiamato Five. Si tratta di un software per l'elaborazione di immagini e filmati per applicazioni investigative. Questo cosa significa? Molto spesso, sempre più spesso, succede che un crimine venga ripreso da telecamere di sorveglianza, che venga ripreso da telefonini per gioco, diciamo, da un passante, che si trovino delle testimonianze utili alle indagini su internet. Molto spesso però la qualità di questo materiale è estremamente scarsa. Con il nostro software è possibile restaurare questo materiale e trarre maggiori informazioni da esso, quindi da un'immagine buia, sfocata, sgranata, mal definita, riuscire ad ottenere maggiori informazioni su un volto, sulla targa di un'automobile coinvolta in un incidente e così via. Oltre che un software, attorno al software esiste anche un'azienda vera e propria. Chi sono i tuoi clienti e chi vendi questo software, che è un software molto particolare? Si tratta fondamentalmente delle forze dell'ordine, quindi forze dell'ordine e le società che già lavorano con esse. Tutti i potenziali clienti sono non solamente polizie, carabinieri, difesa, ma anche le istituzioni locali, perché c'è un bisogno sempre più sentito di utilizzare e analizzare in maniera efficiente ciò che viene acquisito dall'enorme numero di telecamere che è presente sul territorio. Sempre all'interno dei percorsi dell'innovazione abbiamo naturalmente incontrato altri inventori, altre piccole aziende. Una è Botte di Ferro. Michele Costantini è l'ideatore. E noi offriamo un servizio di storage e collaborazione online. Per storage intendiamo la possibilità di caricare i file in internet e inviarli, riceverli con altre persone. Collaborazione intendiamo la creazione di gruppi di lavoro in cui inserire i propri utenti, clienti e fornitori e vedere in real time le modifiche e il caricamento dei file, come in una semplice LAN aziendale però portata a livello di internet. E adesso vi diamo un'altra idea che abbiamo scoperto in questi giorni ai percorsi dell'innovazione di SMAO. Chiara De Caro ha ideato PicWiki. PicWiki è una community web 2.0 dedicata ai libri e legata a librerie indipendenti. Le persone, gli amanti della lettura, vanno online, inseriscono i libri che hanno letto, possono scrivere recensioni, commentarle, fare amicizia con persone che hanno i loro stessi interessi. In più hanno delle sezioni dedicate agli eventi, per cui non so, la segnalazione della presentazione del libro, segnalare la loro partecipazione alla presentazione, la possibilità di inserire anche i propri scritti, quindi i propri racconti. Poi ci sono anche dei concorsi legati a temi, non so, in questo momento si parla del viaggio, per cui ci sono racconti legati al viaggio in senso lato. La particolarità è il legame con questa dimensione reale, il legame tra virtuale e reale attraverso questo network di librerie. Sono librerie indipendenti che hanno uno spazio all'interno della community a loro dedicato per venire in contatto con il mondo dei lettori in internet. Più tardi parleremo della pubblicità online, del mercato e anche di un accordo che Rai ha firmato e ha formalizzato in questi ultimi giorni con YouTube. Adesso una notizia che riguarda il software open source e anche gratuito e disponibile da pochi giorni, la nuova versione, la 3.0 di OpenOffice, la suite da ufficio gratuita e open source più diffusa al mondo. Tutte le informazioni le trovate online www.openoffice.org. Dalla Sardegna arriva, o meglio, potrebbe arrivare una lezione di civiltà. Diciamo così, una delibera della Giunta prevede che la Regione privilegi l'utilizzo del software libero nelle politiche dell'accesso che promuovono il diritto all'uso delle nuove tecnologie. La delibera dovrà ora essere approvata dal Consiglio prima di diventare legge, quindi attendiamo per vedere cosa succederà. Nel provvedimento si parla anche di banda larga e di digital divide. Rimaniamo in Sardegna, dove si è conclusa la prima fase di switch off, lo spegnimento delle frequenze analogiche per lasciare spazio al digitale terrestre. Un processo partito appunto dalla Sardegna che si concluderà alla fine del mese in Sardegna, per poi proseguire l'anno prossimo in altre regioni italiane per concludersi nel 2012. Ne vogliamo parlare con Marco Mele, che segue questi temi all'interno del Sole 24 Ore, e vogliamo partire proprio dalla Sardegna per comprendere il perché si è partiti proprio da quest'isola. Si è scelta Sardegna perché chiaramente è un'isola, quindi ha meno problemi di interferenza con le altre regioni. Il problema delle frequenze televisive è che quando si è una regione confinante spesso il passaggio del segnale non rispetta i confini regionali. Per cui ci sono zone di una regione, come ad esempio il Lazio, in cui si vede la televisione dell'Umbria e viceversa. È importante perché, primo, perché la Sardegna sarà la più grande regione digitale d'Europa. Secondo, perché per la prima volta nella storia della televisione italiana si assegnano le frequenze su cui trasmettono le televisioni. cosa questa che è la norma in tutti i paesi del mondo, che in Italia invece ci arriviamo solo ora e solo per ora in Sardegna. Terzo, perché questa assegnazione è fatta su un principio, una parola complicata che si chiama isofrequenza, che in realtà si può così spiegare. Oggi sul canale 22 in Sardegna trasmettono dalle 4 alle 5 alle 6 TV diverse. Dal 31 ottobre, o insomma da domani nel sud della Sardegna, al 31 in tutta Sardegna, sul canale 22 trasmetterà solo, diciamo, canale 5 o Italia 1 o Rai 2. Quindi un canale viene utilizzato sempre dalla stessa emittente televisiva. Questo permette di trasmettere le stesse televisioni, trasmettere in Sardegna, di trasmettere molti più canali e di liberare due frequenze che andranno e potranno essere gestite e assegnate dal Ministero, il cosiddetto dividendo digitale, e le altre invece non saranno più destinate a usi televisive. Nonostante questo, in Sardegna tutte le televisioni locali avranno una propria rete digitale. In una rete digitale ci vanno almeno 6 canali normali e le altre televisioni nazionali avranno un certo numero di reti. Quindi un passaggio pianificato che aumenta la capacità trasmissiva senza diminuire l'offerta per il pubblico. Quindi, per gli utenti ci saranno un pochino di problemi in Sardegna in questi 15 giorni, proprio perché bisogna cambiare, rispetto alla sintonizzazione dei televisori cambiano le frequenze, poi dovrebbe mettersi tutto a posto e dovrebbe avere più canali e più offerta. E aggiungo, sarà divertente capire che succede a livello di Auditel, perché non è scontato che la proporzione degli ascolti sia esattamente uguale a quella di TV analogica, perché nel digitale ci sono più canali e più offerte che non ci sono nell'analogico. In tutte le aree sono coperte, tutti i cittadini hanno un decoder? Tutti i cittadini hanno un decoder, tutti i cittadini dovrebbero avere un decoder, sicuramente a Cagliari e nel sud della Sardegna è sicuramente così, nel nord in alcune aree come Alghero soprattutto non c'è stato lo spegnimento anticipato di Rai 2 e Rete 4 che porta tutta la popolazione a fornirsi il decoder, penso in questi 15 giorni ti faccio una corsa a, diciamo, in qualche modo regalare e fornire decoder. Comunque in genere lo switch off avviene sempre quando il 93-94% della popolazione ha il decoder, non il 100%, c'è una minoranza che probabilmente non vedrà la televisione magari per un po' di tempo, può darsi che ci sia appunto in queste aree, soprattutto nell'algherese. Per concludere, dacci un'idea sui tempi dello switch off nelle altre parti dell'Italia. Dopo la Sardegna che cosa succede? Dopo la Sardegna partiranno Torino, Cuneo, probabilmente entro il giugno 2009, la Val d'Aosta sempre intorno a quella data e Trentino Alto Adige sempre metà 2009. Nella seconda metà 2009 dovrebbe toccare a Roma, a Lazio e a Napoli. Poi nel corso dei mesi successivi e degli anni successivi, da qui, come dicevo, fino al 2012 arriveranno anche tutte le altre regioni. La Sicilia sarà l'ultima perché lì ci sono problemi di affollamento televisivo particolari. Continuiamo a parlare di digitale terrestre, lo abbiamo fatto a SMAO con Augusto Preta, che è direttore generale di IT Media Consulting. Sostanzialmente noi viviamo una fase contraddistinta da 3 o 4 fenomeni rilevanti che sono accaduti tutti negli ultimi mesi e che quindi credo meritino una particolare attenzione. Il primo è il fatto che il mercato del digitale terrestre ormai è diventato un mercato appetibile e questo lo dimostra sia il lancio delle offerte a pagamento che si susseguono e che aumentano soprattutto grazie alle iniziative di Mediaset Premium e di tutte le offerte Mediaset, ma anche all'ingresso su questo mercato di operatori stranieri di grande peso e rilevanza come Disney, Time Warner e Universal, che danno sicuramente impulso allo sviluppo del mercato. Sul piano più generale, diciamo, delle politiche pubbliche, evidentemente il passaggio dall'analogico al digitale, il riferimento che lei faceva alla Sardegna, rappresenta un altro degli elementi chiave di questo processo. L'ultimo aspetto è relativo all'ingresso possibile di altri operatori e quindi dello sviluppo di un mercato del digitale terrestre in chiaro, cosa che finora noi non abbiamo, salvo i casi di Boeing e di Gulp, cioè canali per bambini che danno, come dire, un certo impulso ma molto ridotto al mercato del digitale terrestre, l'offerta in chiaro, cioè quella che non si paga, quella gratuita, era rimasta in secondo piano. Oggi, dopo l'assegnazione da parte dell'autorità per le garanzie delle comunicazioni di un certo numero di spazio sui multiplex, cioè sulle reti distributive dei vari operatori nazionali, nuovi operatori si sono affacciati e forniranno, a partire probabilmente dalla fine dell'anno o forse dall'inizio del prossimo anno, contenuti attraenti anche per chi non è disposto a pagare per vedere la televisione sul digitale. Senta, si può parlare di concorrenza tra satellite, digitale terrestre e in misura minore di IPTV, quindi della televisione erogata via internet? Evidentemente in un contesto, tradizionale non si può non parlare di concorrenza, nel senso che gli operatori tendono ad essere integrati verticalmente e quindi ciascuno ha la sua rete di distribuzione. In quel modello certamente oggi si assiste a una forte concorrenza tra Sky e Mediaset sul mercato della TV a pagamento. Non so onestamente se nei prossimi anni questi modelli ancora funzioneranno, cioè la mia idea è che questi soggetti dovranno cercare di fornire sempre maggiormente i loro contenuti su tutte le piattaforme e quindi più che una concorrenza tra reti ci dovrà essere una concorrenza sui contenuti. Senta, ci sono a suo modo di vedere delle criticità, dei problemi di questo passaggio verso il digitale? Evidentemente c'è un problema di accesso a questi contenuti, ma è un problema non solo digitale. Se prevale il meccanismo delle esclusive che in qualche modo impediscono ad altre piattaforme di poter vedere quei contenuti, e questo evidentemente è un problema di crescita, perché l'utente, il consumatore, vuole vedere i suoi contenuti e dove ha i suoi device, dove ha gli strumenti per la visione. Quindi non imporre il contenuto sulla piattaforma, ma imporre l'attrattività di quel contenuto. Quindi questo è un livello chiaro di barriere allo sviluppo del mercato. E a proposito di sviluppo, di trasformazioni del mercato anche televisivo, tra poco riprenderemo questa puntata di 2024 e parleremo di un accordo formalizzato questa settimana dalla Rai, da RaiNet in modo particolare, e YouTube. Riprendiamo questa puntata di 2024, vi ricordo che il nostro programma va in onda il sabato nel pomeriggio di Radio 24 tra le 15.30 e le 16.30, oppure ci trovate online www.radio24.it, tutte le informazioni nelle pagine di 2024 sul sito internet di Radio 24, ma come sempre, come faccio ogni settimana, vi ricordo e vi consiglio di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast. Trovate online tutte le informazioni oppure inviateci una email all'indirizzo 2024, quindi 2024, @radio24.it. Vi daremo tutte le istruzioni per abbonarvi gratuitamente al podcast e quindi poter riascoltare 2024 quando preferite attraverso il file MP3 della nostra trasmissione. Vi anticipo, e così rispondo anche ad alcune domande degli ascoltatori, che parleremo presto delle soluzioni di storage casalingo. Le case e i computer di casa sono sempre più pieni di contenuti, fotografie, video, musica, eccetera, eccetera, e c'è bisogno di spazio dove salvare questi dati e soprattutto c'è bisogno di sicurezza. Ci sono parecchie soluzioni sul mercato estremamente interessanti e oramai anche molto facili da utilizzare a prezzi molto bassi, comunque 200-300 euro si possono comprare strumenti assolutamente affidabili e generosi in termini di spazio. Ne parleremo presto a 2024. Per altre proposte, idee, scriveteci a 2024@radio24.it. Come spesso dico, il programma cresce e si trasforma anche grazie alla vostra partecipazione. Vi ringraziamo per le email che ci spedite e inviate ogni settimana. La Rai questa settimana ha formalizzato un accordo con YouTube per sfruttare questa community, questo grande portale, come nuovo canale di distribuzione dei contenuti. Ne parliamo con Giampaolo Rossi, che è presidente di RaiNet. Benvenuto a 2024. Buongiorno e grazie a voi. Per quale motivo avete deciso di intraprendere anche questa strada, che è un nuovo modo per distribuire i vostri contenuti? Ma diciamo che la scelta fa parte di una più completa cattiva strategia che era in Rete, quindi la RAI, ha deciso di percorrere su quella che è la grande sfida delle nuove piattaforme. Lo scopo iniziale di tipo sperimentale era quello di presentare una parte dell'offerta presente già sul media portale della RAI, sulla web TV della RAI, rai.tv, indirizzando poi i navigatori di YouTube su quelle che sono le piattaforme RAI. Abbiamo visto in questo periodo di sperimentazione dei risultati eccellenti, circa ben oltre 18 milioni di visualizzazioni dei video della RAI, delle varie strisce di costume, di società, di spettacolo, oltre 400 video online noi abbiamo caricato in questo periodo e circa 4.800 iscritti alla community che in qualche modo si costruisce attorno a questo canale RAI. Tra tutti quelli in lingua italiana il canale RAI è diventato uno dei più sottoscritti di sempre e tra le prime 90 posizioni dei più visti a livello mondiale. La cosa interessante che noi abbiamo verificato in questo periodo di sperimentazione è stato anche in qualche modo l'analisi del target. Circa un 70% di utenti sono di sesso maschile, un 30% di sesso femminile, ma la cosa interessante è che le fasce di età che maggiormente si indirizzavano sui canali, sui contenuti RAI, su YouTube, erano ovviamente fasce di età più giovani rispetto alle fasce di età classiche che seguono i contenuti RAI sulle piattaforme tradizionali. Senta, che cosa è possibile vedere e soprattutto lo si può vedere solo in Italia o in tutto il mondo? No, allora è possibile vederlo complessivamente in maniera globale, anche perché noi ci siamo avvicinati a questo problema delle piattaforme come YouTube, delle comunità online come YouTube, con uno spirito diverso da quello che invece ha caratterizzato altri broadcaster tradizionali. Partiamo da questo presupposto: c'è una difficoltà strutturale in qualche maniera dei broadcaster tradizionali e di chi fa soprattutto televisione generalista a comprendere la portata rivoluzionaria di radicale cambiamento di linguaggi, di contenuti, di forme, di fruizioni di queste nuove piattaforme, soprattutto delle piattaforme IP. La possibilità di confrontarsi con queste nuove realtà emergenti può avere una doppia valenza: da una parte una valenza di chiusura e di protezione quasi assillante che alcuni broadcaster hanno in qualche modo attuato, ad esempio la causa che Mediaset ha aperto nei confronti di YouTube va verso questa direzione, una sorta di tentativo di frenare in qualche modo l'utilizzazione inevitabile del brand e del copyright dei propri contenuti, cercando di bloccare il più possibile. Noi siamo convinti invece che questo tipo di fenomeno non possa essere arginato, al di là di quelli che saranno poi i problemi legati ai diritti, alle normative che verranno sviluppate, ma con queste nuove piattaforme, con questi nuovi modi di fruizione bisognerà in qualche modo confrontarsi. E quindi abbiamo deciso di garantire noi stessi la fruizione da parte degli utenti, il maggior numero possibile in tutto il mondo, di questi contenuti. Quali sono questi contenuti? Prevalentemente, per quello che noi abbiamo potuto verificare, vengono maggiormente sviluppati contenuti legati all'attualità, in modo particolare news, informazioni, ma molto sviluppato soprattutto per il pubblico diciamo più giovane sono le strisce video di contenuto comico, insomma le trasmissioni di maggiore attualità e di maggiore diffusione anche sulla televisione generalista. Però la sfida è importante perché prima ancora che tecnica è una sfida culturale, cioè capire o provare a comprendere come indirizzare il servizio pubblico radiotelevisivo su piattaforme la cui dimensione e la cui duttilità ancora oggi non è assolutamente controllabile. Voi pagate per erogare servizi, erogare contenuti sul canale YouTube o esiste un accordo diverso? No, c'è un accordo di revenue sharing su forme di raccolta pubblicitaria, anche perché è evidente che fino ad oggi la forma di ricavo, diciamo, anche se in qualche modo simbolico, maggiore su internet rimane la raccolta pubblicitaria. Ha detto bene Rossi, si tratta di un cambiamento culturale, soprattutto culturale. Avete sentito che l'accordo è basato su una struttura che condivide i ricavi pubblicitari, quindi uno va su YouTube, guarda un pezzetto di un programma RAI, a fianco ci sarà una pubblicità, quella pubblicità, il ricavo di quella pubblicità andrà in parti uguali o comunque definite dal contratto a YouTube e alla RAI. Questo è un modello che sta prendendo piede sempre di più su internet e in generale generale la pubblicità su internet sostiene molti dei contenuti che noi utilizziamo. La pubblicità, il mercato pubblicitario online sta andando particolarmente bene e vogliamo parlare con Laila Pavone, che è presidente dello IAB Italia e anche managing director di Isobar. Lo IAB, lo ricordiamo, è questa associazione che rappresenta l'ecosistema pubblicitario online. Laila, bentornata a 2024. Grazie, buongiorno Enrico, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Diciamo due cose sullo IAB, che è un'associazione che rappresenta questo ecosistema molto complesso. Lo è ancora così complesso o si sta concentrando? Rimarrà complesso e credo che questa sia una fortuna da un certo punto di vista. È interessante l'ecosistema della nostra associazione perché, a differenza di altre associazioni, rappresenta proprio tutti gli operatori. Quindi non siamo un'associazione di categoria, siamo un'associazione intanto no profit, quindi nessuno di noi sostanzialmente guadagna niente per il lavoro e l'impegno che dà all'interno dell'associazione. Siamo tutti volontari e tutti con una gran voglia di condividere le esperienze e le competenze che abbiamo acquisito in più di 10 anni di internet. Senti, molti esperti di pubblicità sono preoccupati perché le cose non vanno bene nel mondo pubblicitario. Cosa sta succedendo per la pubblicità online? Il mercato degli investimenti pubblicitari, soprattutto quest'anno, sta risentendo proprio della crisi. Pensiamo alle ultimissime settimane, ovviamente non può rimanerne fuori. La cosa interessante è che internet e la pubblicità online invece continua a crescere. È un mercato, per dirla velocemente con qualche numero, quello della pubblicità in generale, che è fermo, sostanzialmente fermo, crescerà, non crescerà o forse diminuirà anche di qualche punto percentuale. Internet sarà l'unico mezzo che invece crescerà, le nostre previsioni sono del 23-24% rispetto all'anno scorso, e questo è interessante perché viene premiato semplicemente per il fatto che la pubblicità su internet funziona. In gergo si dice che genera efficacia ed efficienza, cioè significa che poi alle aziende fa vendere i prodotti, e questa è la cosa fondamentale, soprattutto oggi che le aziende guardano con grandissima attenzione dove spendono i loro soldi pubblicitari. Stiamo parlando di pubblicità online, ma di quale pubblicità stiamo parlando? È con noi Laila Pavone, che è presidente dello IAB, lo Interactive Advertising Bureau. Dunque Laila, di che cosa stiamo parlando poi in realtà? Non solo di banner. Tu hai ragione a dire che internet è un ecosistema anche dal punto di vista pubblicitario. Dentro questa crescita, che è pari a circa 850 milioni di euro, che rappresentano tra l'altro il 7% degli investimenti pubblicitari in generale, ci sono varie forme di comunicazione. Ad esempio la pubblicità sui motori di ricerca, che è una pubblicità totalmente di servizio, diciamo, perché le persone, quando vanno per esempio su Google, digitano una parola chiave e il risultato è spesso un'informazione commerciale, diciamo. È un'informazione però a valore aggiunto, come dicevi tu, perché è quello che stanno cercando le persone. Così, e questa è un'area in fortissima crescita, perché ancora una volta funziona, il ritorno dell'investimento famoso c'è. L'altra sono i banner, che comunque nelle loro forme più variegate, perché quando si dice banner si deve pensare a tutta una serie di opportunità pubblicitarie, molte di queste anche emozionanti, multisensoriali. Io consiglio spesso agli ascoltatori di scaricare il podcast di 2024. Purtroppo però vedo che sta crescendo molto, ma dico purtroppo dal punto di vista di chi fa radio, vedo che sta crescendo molto tutto il mondo del video. C'è chi dice che il futuro sarà visuale, quindi vedremo sempre più cose anche sul web. Questo significa, a tuo modo di vedere, che molto presto rivedremo alcune cose a cui siamo abituati pubblicitariamente parlando alla TV? Anche, nel senso che internet consente un'accelerazione dal punto di vista dell'offerta di comunicazione e di informazione e quindi anche video, perché la banda larga, quindi la connettività veloce, ha consentito proprio al video, quindi a dei contenuti audio-video, di imporsi, esprimersi. È ovvio, siamo persone, quindi il fatto di vedere un video e di avere almeno due sensi coinvolti fa la differenza. Certo, anche dal punto di vista pubblicitario questo significherà una crescita degli investimenti, perché non è tanto una questione di televisione, è una questione di contenuti anzitutto ed è una questione di piattaforme. Io la televisione posso scegliere a questo punto di vederla quando voglio, come voglio e dove voglio, e sicuramente Internet, nel senso più ampio del termine, è un ambiente che favorirà anche questo. Non mi preoccuperei tanto, Enrico, per la radio, per il podcast. E sai perché? Perché in realtà, se pensiamo che le persone, ci sono ricerche che dicono che le persone sono sempre più fuori casa, sono sempre più in movimento e dinamiche, sicuramente ci saranno una serie di mezzi, penso agli smartphone o quei telefoni cellulari che consentono di vedere anche video, ma di scaricare una serie di contenuti, come per esempio i tuoi podcast, che sono interessantissimi, e ascoltarli ancora una volta creandosi il proprio palinsesto. Infatti io spero che molti siano anche distratti da altre cose e l'unico senso che rimane a disposizione sia l'udito e quindi che scarichino spesso il podcast, che tra l'altro sta andando molto bene, insomma, quindi è un fenomeno da osservare con estremo interesse. Tu dicevi prima che questo tipo di pubblicità è, o meglio, questi tipi di pubblicità sono efficaci ed efficienti. Il vero vantaggio della rete è la possibilità di misurare praticamente tutto, di misurare molte cose? La rete ha due vantaggi. Uno, proprio dal punto di vista degli investitori pubblicitari, di essere misurabile. E quando si dice misurabile si intende dire contatto dopo contatto, click dopo click, fino ad arrivare a misurare ad esempio quella che si chiama una conversion, ovvero sia un atto d'acquisto ad esempio, piuttosto che il fatto di lasciare la propria email se l'obiettivo della comunicazione era questo, oppure, non lo so, faccio un altro esempio, richiedere un test drive in una casa, all'interno di un sito di una casa automobilistica. È tutto misurabile, dicevo, proprio per il fatto che da un lato si riesce a capire quante persone ad esempio sono state esposte a un banner pubblicitario, e questo è importante perché si tenga conto che sui mezzi tradizionali è tutta una questione di stime, invece no? Si stima un audience, si stima che qualcuno vedrà qualcosa, tant'è vero che in gergo si dice opportunity to see, cioè un'opportunità di vedere una pubblicità, mentre su internet l'opportunità in realtà apre una pagina web, inevitabilmente per esempio puoi vedere un banner. In più c'è tutto il concetto di interazione, no? Quindi la misurabilità va parallelamente con questa opportunità enorme che hanno i consumatori e d'altro canto le aziende di interagire con le persone, no? E quindi dal click in poi significa che io posso misurare tutto il processo, posso da un lato misurare e capire quali sono le reazioni, interattività proprio dei consumatori, delle persone, e addirittura che cosa vogliono dalle marche, quindi riuscire a proporre una pubblicità a valore aggiunto, semplicemente perché se si è in grado di ascoltare le persone anche la pubblicità può avere un valore molto più grande di quanto già sia, intendo dire. Ecco, a proposito di valore, sappiamo che buona parte della rete internet, non tutta fortunatamente dico, da ogni punto di vista, viene sostenuta dalla pubblicità, molto più di quanto accade nel mondo reale. Nel mondo reale ci sono molte cose che vengono pagate anche perché sono fisiche, quindi le dobbiamo trasportare da un posto ad un altro e questo costa. Su internet invece la pubblicità sostiene molta della crescita, non penso solo ai siti di informazione che sono sostanzialmente gratuiti. Tu pensi che in futuro rimanga così l'equilibrio, cioè buona parte, forse la maggior parte di quello che succede a internet sia sostenuto e pagato dalla pubblicità? Le persone sono abituate, quando sono su internet, ad avere moltissimi contenuti gratuitamente, e credo che questo sia un grosso valore da coltivare, tra virgolette. quella che si chiama Knowledge Society, che in gran parte si appoggia su internet, è proprio una Knowledge Society perché è dato a tutti la possibilità di conoscere, di ampliare le proprie conoscenze senza doverne pagare alcun, senza dover sostenere un costo. Ovvio che c'è sempre una contropartita, e la contropartita in questo senso è la pubblicità. Quindi direi che l'atteggiamento da parte delle persone in questo senso dovrebbe essere un po' più tollerante, mi viene da dire, proprio perché a volte non ci si rende conto che quella marea oceanica di contenuti che abbiamo a disposizione online, molti di questi li abbiamo gratuitamente proprio perché c'è dietro la pubblicità, per intenderci. E così come mi viene da dire, come per la radio in realtà è ancora più importante che per altri mezzi di comunicazione, posso citare il quotidiano o i periodici ad esempio, uno va in edicola, intanto paga un costo e poi c'è anche la pubblicità, no? Qui non paghi niente, tipicamente non paghi niente, ci sono rarissimi i casi in cui si devono pagare dei contenuti. Credo che rimarrà così e tutto sommato dovrebbe rimanere così, a patto che le persone siano un po' più consapevoli e da un certo punto di vista tolleranti nei confronti della pubblicità. Noi oggi abbiamo anticipato alcuni temi, abbiamo parlato di questo tema che secondo me è molto interessante, che voi poi approfondirete in un appuntamento che ormai è una tradizione, i primi di novembre, se non sbaglio. Sì, il 5 e il 6 novembre a Fiera Milano City, quindi in via Gatta Melata a Milano, c'è questa manifestazione che ormai è al sesto anno, che si chiama IAB Forum. È un appuntamento che coinvolge tutti gli operatori della pubblicità, quindi non solo internet, perché ci vogliamo proprio vogliamo coinvolgere tutti. Anche perché c'è qualcuno che ancora non ha capito, e allora viene e cerca di capire. Infatti l'obiettivo non è tanto parlare fra di noi, no? Sì. Ma arrivare a tutti coloro invece che hanno ancora bisogno di capire. Comunque è importante in ogni caso per tutti, perché si fa un po' lo stato dell'arte, no? Internet è un mezzo talmente dinamico, e non dico che ogni giorno, ma sicuramente ci sono dei periodi in cui capitano tutta una serie di innovazioni che hanno a che vedere anche con la pubblicità, per cui è molto importante o almeno ogni 12 mesi trovarsi e dire ok, cos'è successo, quali sono le opportunità che possiamo cogliere da questo momento in poi. Poi quest'anno è stato veramente incredibile, sono successe tantissime cose nel mondo della comunicazione e della pubblicità su internet. È un appuntamento che per chi fa il nostro mestiere o comunque si occupa di marketing, di comunicazione, credo che sia il più importante appuntamento dell'anno. Lo dico con, devo usare un po' di modestia ovviamente nel dire questa cosa, però tieni conto che vengono circa 5-6 mila persone ed è praticamente tutto il mondo della pubblicità. Certo. Bene, grazie a Laila Pavone per essere stata con noi, buon lavoro, grazie a voi, a presto. A presto. E così concludiamo questa puntata di 2024, vi ringraziamo per la vostra attenzione, per averci seguito. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica 2024, scritto in cifra 2024, @radio24.it. Grazie anche a Luigi Borghi in redazione. Io sono Enrico Pagliarini e ricordate che è possibile abbonarsi gratuitamente al servizio podcast di 2024, anche con altri programmi di Radio 24. Noi torniamo la prossima settimana, sempre il sabato, nel pomeriggio di Radio 24, tra le 15.30 e le 16.30. Da Enrico Pagliarini l'augurio di un buon ascolto. You are disconnected. Bene, ora ci fermiamo, una breve pausa, 2024 vi aspetta tra poco. Ci sentiamo tra qualche minuto. Siete all'ascolto di 2024, adesso ci fermiamo per un minuto, riprendiamo tra poco e parliamo di TV digitale terrestre.